ai ritmi della natura sono abituati, anche alle sue crudeltà, non ce l'hanno con Dino, per carità, però insomma stanno cominciando a spazientirsi, perché spariscono le galline, spariscono gli asini per l'appunto, e allora hanno iniziato con botti, petardi, nella speranza che il rumore metta in fuga l'intruso. Ricorda la vicenda, vi ricordate di Bruno, un altro orso che arrivò in Trentino, poi fu cacciato, fu mandato via perché stava facendo razzia di animali. Appena varcò il confine, lui, inconsapevole, con la Germania, fu abbattuto dai bracconieri. E allora, sì, cari abitanti di Posina, difendete le vostre galline, difendete i vostri asini, non cacciatelo però in Slovenia, perché magari gli sparano, non so, qualcuno sarà già pronto, l'orso Dino, ad adottarlo qui in Italia. Vedrete che ci sarà una bella petizione, sono sicuro anche che la nostra Sara Spreafico in redazione sarà la prima a firmarlo. Salviamo l'orso Dino. Sono le 8:17 minuti, eccoci, rientriamo in diretta, è il momento di Deborah Rosciani. Soldi e dintorni. Eccoci Deborah, buongiorno. Devo fare un mea culpa. Ma posso? Guarda, certo che saprai anche parlare in islandese, ma in italiano potresti anche impegnarti un po' di più. Mi hanno subissato dei messaggi. E in geografia direi, si come dice, se io invece l'avessi saputo. Si dice Posina, non Posina, come ho detto io, questo paesino. Cos'è che è successo in questo paese? C'è l'orso Dino che mangia gli asini. È perché eri stato così coinvolto dalla notizia che non hai pensato l'orso dove Dino. Mettere l'accento a Posina, sul paese. Posina. Ecco, il vulcano tutto a posto. Salviamo l'orso Dino. È Jafjalla Jökull, senti come lo pronuncio bene. Non bene quanto l'islandese, però lo risentiamo, ce l'abbiamo Peter. Non so, Peter ce l'ha. Non ce l'ha. Chiarissimo. Ma andiamo a fare la spesa che è meglio. Guarda, ritorniamo un po' ai nostri vecchi cavalli di battaglia, quelli che abbiamo toccato tante volte a Salvadanaio, e come ci capita spesso, oggi torniamo a parlare di un'iniziativa di cui vi abbiamo già raccontato lo scorso settembre, esattamente intorno a metà mese. In quell'occasione si celebrava la prima giornata internazionale contro le buste della spesa. Allora, perché ritorniamo su questo argomento? Perché sabato scorso è partita la settimana nazionale Porta la Sporta, che durerà fino al 24 aprile. Di cosa si tratta? Oggi lo scopriamo con l'ideatrice, la coordinatrice della campagna Porta la Sport. È tornata qui con noi Silvia Ricci. Silvia, buongiorno e bentornata a Soldi e Dintorni. Ormai sei un'amica del nostro spazio. Benvenuta. Fortunatamente sì, ciao a tutti. Allora, è un'iniziativa molto interessante. Noi peraltro eravamo partiti nell'ambito dell'altra trasmissione ricordando un po' che cosa e quale avvenimento in particolar modo aveva mosso anche un po' le tue iniziative qui in Italia. Silvia, poi ricorderemo di nuovo di questo documentario che era apparso in Inghilterra sui canali della BBC sulle spiagge di una cittadina nel Devon, dove appunto l'utilizzo massiccio di sacchetti di plastica purtroppo si era riversato su questo luogo. Poi ce lo racconterai, ma intanto raccontiamo bene ai nostri ascoltatori sensibili alle tematiche ambientali cosa succede in questa settimana e che cosa potranno trovare facendo la spesa presso le insegne della grande distribuzione che hanno aderito all'iniziativa. Sì, allora in questa settimana non ci saranno solo gruppi della grande distribuzione, ma ci saranno comuni e province che mettono in campo delle azioni di sensibilizzazione verso i cittadini. Ci sono ad esempio laboratori di Cuci la Sporta, Decora la Sporta. I gruppi della grande distribuzione in particolare adotteranno delle nostre locandine che hanno personalizzato, invitando i propri consumatori a comprare ed utilizzare le borse riutilizzabili per l'appunto. Dopodiché ci sarà lo spot Porta la Sporta, che viene diffuso in tutti i centri e che ci sta procurando veramente accessi da record al sito. Ah, bene, allora intanto ricordiamo che tutto prende le mosse dall'associazione che tu coordini, Silvia, che è l'associazione Comuni Virtuosi, alla quale aderiscono 38 enti locali, però complessivamente Porta la Sporta di questa settimana ha visto coinvolti oltre 100 comuni e più di 2.500 punti vendita, sono cifre corrette? Sì, sono cifre corrette e senza precedenti, considerando che ci sono state veramente 4-5 settimane di preparazione per i comuni, quindi il risultato è assolutamente eccezionale. Io per i comuni virtuosi coordino la campagna. Mm-hmm. La campagna che è partita quando e come? Ricordiamo un po' le origini e come hanno preso le mosse queste iniziative nel nostro paese. Mi piacerebbe che ci ricordassi di nuovo questa origine della campagna, che in realtà arriva dal Regno Unito. Sì, ho preso spunto da un'iniziativa portata avanti da una singola persona, Rebecca Hosking, una cameraman della BBC, che ha filmato lo scempio che la plastica reca a isole sperdute dell'oceano del Nord Pacifico. Rebecca è tornata a casa e ha detto no, devo fare qualcosa. A questo punto ha fatto una colletta tra i negozi di questa piccola cittadina di Modbury, i commercianti si sono tassati, da quel giorno lì hanno eliminato totalmente le buste in plastica e sono diventati la prima cittadina plastic bag free. E questo esempio è stato contagioso e adesso sono circa 140 le cittadine inglesi che si sono liberate dalla plastica con un movimento che è partito dal basso. Infatti, no, quindi... tra l'altro qualche cifra magari, Silvia, per sensibilizzare un po' chi non si fosse mai posto questo problema. Un sacchetto di plastica può essere usato 20 minuti il tempo di portarlo dal supermercato a casa, al limite lo si può riciclare per buttare la spazzatura, ma questo non cambia il suo destino perché la terra impiega qualcosa come 400 anni a distruggerli. In Europa si consumano, dico bene, 100 miliardi di sacchetti di plastica ogni anno? Sì, sì, queste sono le stime. Il sacchetto in plastica, a seconda del suo spessore, può metterci da una ventina d'anni fino a centinaia di anni e soprattutto quando finisce in acqua le condizioni che ci sono appunto negli oceani, eccetera, prolungano ulteriormente la vita della plastica che si scompone in migliaia di anni in pezzettini minuscoli che, scambiati per plancton, vengono mangiati dai pesci. Quindi, infatti, in realtà la plastica è entrata nella catena umana e nel nostro DNA. Quanti ne consumiamo in Italia? Quanti ne utilizziamo? Quindi quanti sarebbe necessario eliminarne? Sì, in Italia rispetto ad altri paesi come l'Inghilterra o la Francia ne consumiamo esattamente il doppio, circa un 20-24 miliardi di sacchetti, perché siamo diventati sacchetto dipendente. Anche quando andiamo in farmacia a comprare un'aspirina ci arrabbiamo se non ci viene dato un sacchetto minuscolo che non serve assolutamente a nulla. Quindi questa è una battaglia che tutti noi dobbiamo combattere a partire dal nostro quotidiano, rifiutando ogni tipo di sacchetto monouso, anche biodegradabile. Silvia, a prescindere dagli atteggiamenti individuali di sensibilità verso questo argomento che possiamo avere, esiste anche un contorno legislativo a tutto questo che però non è ben definito, perché leggo spesso sulla stampa che si parla di una direttiva europea che a partire dall'inizio di quest'anno avrebbe dovuto introdurre la graduale sostituzione dei sacchetti di plastica con quelli biodegradabili. In realtà non esiste esattamente una direttiva comunitaria alla quale il governo italiano dovrebbe obbligatoriamente ottemperare. Esiste qualcosa di un po' più impreciso, purtroppo, se non sbaglio. Sì, esiste una norma di riferimento che definisce la biodegradabilità dei sacchetti e quindi è una sorta di invito, diciamo, a utilizzare sacchetti biodegradabili, ma non è una vera norma, un vero divieto a cui il nostro governo deve per forza ottemperare. Per quello che ci riguarda, noi ci muoviamo comunque perché riteniamo che siano i cittadini che possono fare tanto. Tanti piccoli atti sommati creano dei cambiamenti epocali ed è lì che Porta la Sporta vuole lavorare, cercando di modificare certi atteggiamenti, certi stili di consumo, e si interfaccia con i comuni perché a livello locale possono fare tanto. Quindi la cosa importante è proprio la relazione con le amministrazioni locali, quindi sensibilizzare a quel livello, e per questo che è nata l'associazione Comuni Virtuosi. Noi tra un po', Silvia, dobbiamo chiudere il nostro spazio. Ricordiamo magari con le ultime informazioni concrete ai nostri ascoltatori cosa possono fare in questa settimana, ma sperando naturalmente che l'impegno poi non si limiti a questi pochi giorni. Assolutamente sì, quello che possono fare è provare a ricordarsi di portare una borsa, mettere una piccola borsa riutilizzabile in tasca, nella borsetta, appenderla al pomello del portoncino di uscita. Insomma, non ci vuole molto, un piccolo allenamento, ma poi questo processo può dare altri risultati, può spingere le persone a bere acqua del rubinetto. E se avessimo all'ascolto, Silvia, un sindaco che fino ad ora non si era posto questo problema, da domani invece volesse cambiare rotta? Posso solamente dire di venire sul nostro sito, di dare un'occhiata, di telefonarci e noi siamo in grado di dare tutta la consulenza necessaria, anche la personalizzazione di locandine a livello totalmente gratuito. Dacci i riferimenti allora del sito internet, così possiamo salutare con la nostra ultima informazione i nostri ascoltatori. Sì, www.portalasport.it. Benissimo, grazie Silvia, buon lavoro per questa settimana e naturalmente anche per gli impegni futuri. Buona giornata. Grazie anche a voi. Alessandro. Eccoci qua allora. Allora di nuovo banche americane nella bufera, Grecia che ancora fa paura, oggi ritorniamo a monitorare i mercati finanziari. E non alle c'entrano 12. I vulcani. Niente, beh, anche quello in questi giorni ci si è messo è perché i titoli delle compagnie aeree sono scesi a picco. Certo. Non gli aerei, delle compagnie aeree. I titoli. Allora ci fermiamo per la pubblicità. Il nostro sondaggio di oggi è: venerdì scorso Berlusconi ha detto, non è la prima volta, troppi film, troppi libri sulla mafia fanno una cattiva pubblicità all'Italia all'estero. Ha anche citato per la prima volta Gomorra di Saviano, suscitando un vespaio di polemiche, dibattiti con lo stesso Saviano che ha scritto a Repubblica: non so mica più se a questo punto posso pubblicare con Mondadori. Che ne pensate? Film e libri sulla mafia fanno troppa cattiva pubblicità all'Italia? Radio24.it, bianco o nero per votare. Tra un attimo, se volete, 800 24 00 24, potete anche chiamarci. Alle 8:32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, le notizie in primo piano. Stamattina alle 8 è ripartito col contagocce il traffico aereo in Europa, molti paesi mantengono comunque chiuso il proprio spazio aereo, vi terremo costantemente aggiornati, vi ricordo che alle 9 si occuperà di questo tema il nostro Oscar Giannino. Sulla politica rimane la tensione nel PDL, Gianfranco Fini oggi riunirà gli ex parlamentari, i parlamentari ex ADN per spiegare il suo dissidio con Berlusconi, che intanto dice l'accordo non dipende da me. L'ex governatore del Lazio Piero Marrazzo fu la vittima predestinata di un'imboscata da parte di alcuni carabinieri, lo ha stabilito la Cassazione nel provvedimento che conferma le misure cautelari ai carabinieri. E Marrazzo commenta: sono una vittima, sono pronto a tornare a lavorare in Rai. Infine stasera, per l'andata delle semifinali di Champions League, tutto esaurito a San Siro, si sfidano Inter-Barcellona, con Barcellona che è arrivato a Milano in pullman per colpa della nube vulcanica. E allora alle 8:33 minuti siamo pronti per il nostro sondaggio di oggi, parliamo di mafia, di film e libri di mafia e di quello che ha detto il premier Berlusconi. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Non l'ha detto per la prima volta, non è una novità, ma Berlusconi venerdì scorso ha ribadito un concetto che andiamo peraltro ad ascoltare. Vorrei soltanto rimarcare che la mafia italiana, per classifiche che non so in che modo compilate, risulterebbe essere la sesta mafia al mondo, ma guarda caso è quella più conosciuta, perché c'è stato un supporto promozionale a questa organizzazione criminale che l'ha portata ad essere un elemento molto negativo di giudizio per il nostro paese. Ricordiamoci le 8 serie della Piovra, viste dalle televisioni, programmate dalle televisioni di 160 paesi nel mondo, e tutto il resto, tutta la letteratura, il supporto culturale, Gomorra e tutto il resto. Il supporto promozionale, il supporto culturale alla mafia viene anche da questa vasta letteratura, film, libri, La Piovra. Per la prima volta ha citato anche Gomorra di Saviano, si è scatenato un dibattito. Oggi, se prendete qualsiasi giornale, questo dibattito ancora è pieno sui giornali di questo dibattito, perché Saviano poi ha preso carta e penna, ha detto: io non so più se posso scrivere per Mondadori, è stato un attacco alla libertà di scrivere. Il giorno dopo ha risposto Marina Berlusconi, presidente di Mondadori. Insomma, il dibattito c'è. Noi vi chiediamo: che ne pensate di questa frase di Berlusconi, cioè troppi libri, troppi film sulla mafia fanno cattiva pubblicità all'Italia? Intanto lo voglio chiedere due ospiti: Alessandro Sallusti, condirettore del Giornale, che ritrovo, buongiorno Sallusti. Buongiorno. Così come voglio salutare Raffaele Cantone, buongiorno Cantone. Buongiorno. Allora, do questa sua definizione: magistrato fino al 2007 nella DDA di Napoli, ora lavora in Cassazione, magistrato che ha pubblicato un libro che parla anche di Camorra, ha pubblicato per Mondadori, posso anche aggiungere amico personale di Saviano, così abbiamo fatto il quadro insomma completo. Sì, assolutamente, perfetto. Siamo certamente amici. Perfetto, allora intanto Sallusti, perché il Premier, lei è d'accordo con questa frase del Premier, cioè troppa pubblicità negativa all'Italia data da tutti questi film, oltre ora anche il libro di Gomorra tradotto in tutto il mondo? Sì, sono d'accordo, anche se, come dire, Berlusconi viaggia come al solito per estreme semplificazioni nel suo linguaggio, forse per questo anche la gente lo apprezza, perché è bianco o nero, poi in realtà immagino, credo, da quello che so, da quello che sento, il suo pensiero anche dei grigi, come dire, che però appunto non comunica, perché i grigi complicano un po' la ricezione di un messaggio, e per cui l'essenza del messaggio la condivido sia in quantità che in qualità, cioè si parla troppo di mafia, soprattutto in letteratura e in una certa filone televisivo, e soprattutto si parla con degli stereotipi che io credo, non sono un esperto di mafia, ne abbiamo un collegamento uno, che io credo ormai non esistono neanche più in natura, tra l'altro. Però Saviano, nella lettera pubblicata su Repubblica, in cui si è rivolta proprio a Berlusconi e nella quale ha detto: ora non so più se potrò pubblicare con Mondadori, ha detto: ma quando c'è un incendio si lascia sfuggire chi ha piccato le fiamme e si dà la colpa a chi ha dato l'allarme, oppure insomma il potere mafioso è determinato da chi racconta questo crimine o da chi lo commette. Questo, Sallusti, è un po' il problema, perché andare ad additare coloro che denunciano quello che succede? No, sicuramente chi lo commette, ma io credo che, non dire, non è equivocabile in questo senso il messaggio, non sono equivocabili le parole di Berlusconi. Il fatto è che chi lo racconta ne contribuisce da una parte a alimentare il mito, ma credo che il discorso che faccia Berlusconi non è soltanto nel merito della mafia tout court, è nel merito che l'immagine che passa all'estero, che poi va a incidere anche su altri settori, non solo quello, addirittura sui settori economici, è un'immagine deviata di questo paese se la si racconta attraverso la mafia, anche perché Berlusconi ha fatto una premessa: attenzione, pensiamo di essere il paese dei mafiosi, la nostra mafia è al sesto, per la verità alcuni dicono settimo posto, per quantità e pericolosità di infiltrazione mafiosa siamo il settimo paese al mondo, quindi non è neanche vero che siamo un paese di mafiosi. Allora sentiamo Raffaele Cantone, siamo questa letteratura dalla quale anche lei ha contribuito con questo libro, Solo per giustizia, va un po' a rinfocolare questa immagine all'estero che abbiamo, italiano, pizza, mandolino e anche Coppola, insomma mafia? Ma prima di tutto mi permetta di fare una brevissima premessa: se fossimo il settimo paese o il sesto paese al mondo, io non ne trarrei occasione di essere soddisfatto, su tanti paesi che ci sono essere il sesto o il settimo non è affatto un'occasione di merito. Non mi sembra che su centinaia di paesi che esistono al mondo piazzarsi in una classifica negativa al sesto o al settimo sia un dato di per sé positivo, e già questa la dice lunga sul fatto che il fenomeno c'è. Io credo che la letteratura non abbia affatto, o almeno un certo tipo di letteratura non abbia affatto ampliato il fenomeno. Io sono convinto che il fenomeno è ampliato dai fatti: la strage di Capaci, le stragi di Via D'Amelio, gli omicidi degli uomini di Stato, per la verità avvenuti soprattutto in passato, hanno dato un'immagine di uno Stato potentissimo, il coinvolgimento di uomini politici importantissimi in vicende che riguardano la mafia. Sono fatti, e la letteratura tutto sommato ha l'obbligo di descrivere i fatti. Ora io credo che il Premier abbia tutto il diritto di fare le critiche che ritiene, anche così come diceva il condirettore Sallusti, con un meccanismo di semplificazione, però io credo che quando si faccia una critica così pesante, parlando di supporto promozionale, bisognerebbe dire per esempio che Gomorra ha raccontato bugie, visto che avrebbe fatto da supporto promozionale, cosa che non credo si possa sostenere. Allora io dico: se qualcuno racconta la verità, la verità non è mai contro gli interessi di un paese, la verità è verità. E chiudo con una notazione che ho vissuto sul piano personale. Io non credo affatto che Gomorra all'estero abbia portato un'immagine negativa. Io ho girato anche per il libro, sono stato in molti paesi esteri, ho partecipato a dibattiti e questo fenomeno viene visto con grande interesse positivamente, cioè per la prima volta qualcuno riconosce l'esistenza di un giovane che non appartiene a mondi culturali, a mondi della politica, a un giovane che parla con tutti. Lei sa bene che nell'intervista che ha rilasciato, per esempio, su Panorama ha scatenato a sinistra un grosso dibattito. È uno che parla con tutti e questo è il suo grande merito e che ha sollevato un problema. Tra l'altro, lei l'ha sentito in questi giorni? Ce lo dico, non sì, voglio. Io l'ho sentito, come l'ha sentito? Non vogliamo ovviamente farle dire cose che non può dire, rimangono tra voi le conversazioni. Ma come l'ha sentito? Amareggiato? Certo. L'ho sentito abbastanza amareggiato, nel senso che lui dice le critiche sono legittime, ma io vorrei critiche, non prese di posizione a prioristiche, perché quando tu dici un'attività è di supporto alla mafia, io credo che la verità non sia mai di supporto a nulla, perché se tu mi dici io ho detto una bugia e mi critichi in qualche aspetto, io credo che la critica sia assolutamente legittima. La qualificazione, sia pure come dice il direttore Sallusti, che detta da Berlusconi che è un grande comunicatore di supporto alla mafia, rischia di ingenerare un meccanismo di confusione. Tra l'altro, questo non riguarda per la verità solo Gomorra, eh? No, ma è chiaro. Tra l'altro, il giorno dopo, come ha detto Marina Berlusconi, ha risposto sempre dalle pagine di Repubblica, anticipando come premessa: sono d'accordo, concordo con quello che ha detto mio padre, che è il presidente del Consiglio. Però poi ha fatto tutte le precisazioni sul fatto: rimanga con noi Saviano, perché siamo una casa editrice liberale, libertaria. Saviano ha risposto dicendo: ho trovato, ribadisco le parole del capo del governo, finalizzate a intimidire chiunque scriva di mafia, di capitali mafiosi. Insomma, il dibattito si è diffuso anche su questo tema. Può e deve Saviano continuare a pubblicare con Mondadori, che è la casa, insomma, è una casa editrice appartenente, insomma, alla famiglia Berlusconi. Tanto che si è rispolverato anche questa tematica, che anche oggi trova ampio spazio sui giornali. Io a questo proposito voglio salutare anche Vincenzo Ostuni, che ci sta ascoltando, editor di Ponte alle Grazie, un'altra casa editrice. Ostuni, buongiorno e benvenuto. Buongiorno Milano. Vincenzo Ostuni, tra l'altro, viene citato oggi dal Riformista in prima pagina, perché insieme a Luisa Capelli è animatore di un appello su Facebook in cui chiedete sostanzialmente che cosa? A Saviano di non pubblicare su Mondadori. La faccio molto brutale. È così? Sì, in realtà non nasce adesso, ma nasce dopo la richiesta di Saviano a Berlusconi di ritirare il disegno di legge sul processo breve, quindi lo scorso novembre. E adesso conosce una nuova diffusione, ovviamente, in questi giorni. E perché Saviano non potrebbe pubblicare per... Stiamo parlando di un appello, ovvero, a nostro parere, per motivi più generali e che riguardano anche direttamente questioni di censura, perché se Saviano non è stato censurato, altri autori, Saramago, Belpolitti, prima di loro Rabboni, sono stati effettivamente censurati dal gruppo Mondadori per motivi politici. E, per una serie di motivi, chiedevamo a Roberto Saviano, che noi apprezziamo, stimiamo e appoggiamo in tutti i modi, come intellettuale e come voce critica, di lasciare la sua casa editrice come gesto politico. Insomma, ecco. Come gesto politico. Politico, perché secondo me, diciamo, la cosa che è venuta in chiaro in questi giorni è che questa polemica degli ultimissimi giorni contribuisce a chiarire ulteriormente che la questione non riguarda solamente però un problema di linea editoriale della Mondadori, ovvero non è che siccome Berlusconi ha espresso una critica sulla cui qualità intellettuale possiamo discutere a lungo, questo significherà che la Mondadori censurerà Saviano. Però ha messo in chiaro che esiste un rapporto molto più stretto fra Mondadori e il suo proprietario di quanto fino adesso fosse venuto in chiaro. E direi che l'anello fondamentale in questo è la dichiarazione della Marina Berlusconi, che poi infatti è stata un po' attenuata successivamente da Cavallaro e oggi anche da Ferrari, direi. Sì, Gianarturo Ferrari ha fatto un intervento sul Corriere della Sera, è l'ex direttore generale della divisione libri del gruppo Mondadori. Come avete accolto questa apertura, di questi dubbi di Saviano, che ha detto a questo punto non so più se posso pubblicare con Mondadori? Immagino con soddisfazione, cioè, sì, vi auspicate? Ma credo che ci sia una relazione di causa effetto, anche se ritengo che lui sappia di questo appello, insomma, che sia arrivato. Penso di sì. Io sono contento e credo che se succeda sia un bene per la cultura italiana, ecco. Non la considero una vittoria personale. Da qui voglio ripartire, perché è interessante anche pubblicare per Berlusconi da parte di Roberto Saviano. Da qui voglio ripartire da Sallusti subito dopo il traffico, anche perché ieri Vittorio Feltri ha vergato un editoriale molto molto duro, cioè a dire io se scrivo per Berlusconi sono un servo, sono uno che è un prezzolato, un servo del dittatore. Se invece Saviano pubblica per Mondadori, invece no, lui è un emblema. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, dando lo sguardo, siete a 50-50 su Radio24.it, cioè vi chiediamo film e libri sulla mafia fanno cattiva pubblicità all'Italia, esattamente 50-50. Allora, prima di tornare da Sallusti, che deve sicuramente una replica al fatto scrivere per Berlusconi, che è editore ma è anche presidente del Consiglio, Pasquale da Verona, buongiorno, due ascoltatori che ci hanno chiamato. Pasquale. Buongiorno. Lei che dice? Ecco, sì, io rispetto all'intervento di Berlusconi, siccome ho 50 anni, ricordo nell'84 identico intervento di De Mita riguardo al prima puntata della Piovra. Cioè De Mita disse la stessa cosa sulla Piovra? La stessa cosa, identica, siccome ho buona memoria. Cioè che disse? È meglio inquadrare il fatto storico. De Mita all'epoca era... diciamo l'apoteosi e la mafia aveva vinto lo scudetto per diversi anni, perché che vuol dire lo scudetto? Posto, vabbè. Siamo in zona. Vabbè, allora eravamo primi, visto che si parla di primo posto. Sì, sì, vabbè, posto, ma che disse De Mita? Disse... Allora De Mita disse che la Piovra dava una cattiva pubblicità all'Italia. Si può prendere le cronache dell'epoca, e ecco. Adesso dice la stessa cosa Berlusconi. Quindi io penso, vabbè, spero che mi sbagli, perché... Vabbè, insomma, comunque lei vede questa analogia. No, voglio concludere, è molto sintetico l'intervento. Quando un politico raggiunge un determinato potere deve entrare a patti, quindi connivenze, quindi deve dare dei segnali. Io lo leggo così. Lei lo legge come un segnale addirittura alla mafia, vabbè. Vabbè, il suo parere. E che segnale sarebbe? Il segnale mi sembra abbastanza chiaro, vuol dire che comunque siamo zitti, perché comunque ci deve continuare una certa operatività politica. Vabbè, insomma, Berlusconi ha detto mafia, andate pure avanti a fare il vostro lavoro. Questo l'ha detto così, l'ha fatto capire. Però, no. Vabbè, Pasquale, va bene, questa è la sua interpretazione. Grazie, voglio andare a Rimini. Gian Vittorio, buongiorno. Gian Vittorio. Buongiorno, salve. Io volevo solo dire che sono invece d'accordo col Presidente e volevo mettervi solo al corrente di quello che mi è capitato andando a New York. Io vado a fare spesa, cioè, diciamo, vado a fare una passeggiata, entrando in, posso dire, quasi tutti i negozi che c'erano sulla Settima Strada, entrando dentro, italiano, e detto, mafioso, sì, mafioso, venga. Questo per colpa di chi? Per colpa di Gomorra? No, questo praticamente da anni... Lei sa che deve rispondere a questi americani. Andate a fare un giro alla sede dell'FBI e vedrete che c'è il busto di Giovanni Falcone lì esposto. Certo. La prossima volta glielo dica. Il problema è che questo è un po' il pensiero, sembra, di tutti, quello che hanno degli italiani all'estero. Quindi aumentare ancora, per carità, è un mio piccolo pensiero. Che va bene, lei dice fomenta questa cosa. Grazie Gian Vittorio. Allora, Alessandro Sallusti, perché ieri Vittorio Feltri si è molto adombrato dicendo scrivo io per Berlusconi, sono un servo, scrive Saviano, è un eroe, un emblema, intoccabile? No, perché nella ormai... E risponda anche a Ostuni, che dice non deve pubblicare per Mondadori, è una scelta politica, dovrebbe farlo, Saviano. No, nella famosa è un nostro tormentone, voglio dire, il doppio moralismo, il doppio pesismo di sinistra, soprattutto degli intellettuali di sinistra, scrittori, giornalisti, artisti, comici, I soldi di Berlusconi sono lo sterco sedati a Vittorio Feltri, a Minzolini, mi permetto di dire nel mio piccolo Sallusti, cioè sono soldi per comprare la mente e il corpo dei suoi sudditi. Sedati a loro stessi invece sono soldi benedetti e puliti e neanche tanto in odor di mafia, per la verità. Teniamo conto che l'80%, adesso passatemi la semplificazione della statistica, l'80% degli intellettuali italiani di sinistra scrive, compresi i politici, i leader di partito, scrive per la Mondadori, che è una delle più grandi case editrici europee, è l'unica attrezzata a poter diffondere i libri in Italia e attraverso i suoi network nel mondo e quindi a veicolare in maniera efficiente e moderna il prodotto intellettuale degli italiani. Ma Saviano dovrebbe continuare a pubblicare con Mondadori o, come chiede Vincenzo Stuni, faccia questo gesto politico? Ma insomma, io credo proprio di sì, è come chiedere agli italiani di non andare più a fare la spesa alla Coop, perché agli italiani di centrodestra di non andare più a fare la spesa alla Coop perché si finanzia Bersani. Cioè siamo al ridicolo del ridicolo. Ma dopodiché io sono sempre sospettoso quando accadono queste cose, perché chissà perché Saviano si sveglia oggi che è un ricco signore milionario che va in giro protetto, neanche fosse il Papa, dando questo stato, e in parte anche giustamente protetto perché è stato minacciato, ma ormai è diventata una sorta di Madonna pellegrina che viene portata in giro. Questo però vorrei che Cantone rispondesse. Cantone, Saviano su questo so che si adombra molto, no? Dire la protezione, come, ecco, queste accuse di essere milionario, queste accuse di essere protetto, lui dice sempre, ecco, quasi una colpa essere sopravvissuto, quasi una colpa che non mi uccidano. Sì, però mi faccia dire una cosa sulla Mondadori. Io, ovviamente nel mio piccolo e senza nessun paragone, ho pubblicato un libro con la Mondadori e sono contentissimo di questa esperienza. Non ho trovato nessun tipo di censura e anzi ho trovato una grandissima professionalità, e se avrò la possibilità continuerò a pubblicare per la Mondadori. Ciò detto, io anzi chiederei a Saviano di restare con la Mondadori, perché se la grande operazione di Saviano è stato quello di non essere un intellettuale organico, e tutto sommato il fatto di pubblicare per una casa editrice così anche multiforme dal punto di vista ideologico manterrebbe il carattere non organico della posizione di Saviano, che è un bene per tutti, perché l'antimafia non deve essere di destra e di sinistra, è una precondizione. Detto questo, ha ben ragione Saviano di arrabbiarsi quando qualcuno dice queste cose, perché io, che mi capita di rivederlo, di sentirlo, di stare insieme, vorrei veramente invitare chi critica su questo aspetto a fare un giorno della vita che fa Saviano. Non dimentichiamo, Saviano ha 30 anni, Saviano non è un magistrato, non è un poliziotto, non ha neanche la dimestichezza nei rapporti con le forze dell'ordine, ed è una limitazione pesantissima alla sua vita privata. Quindi io concordo con quello che lui dice su questo aspetto quando dice: ma la protezione non è una scelta di volontà, è anche un'imposizione che viene fatta da una valutazione in cui il soggetto singolo in qualche modo non c'entra nulla. Certo. Io mi devo fermare qui ringraziando tutti, Raffaele Cantone, Alessandro Sallusti e Vincenzo Ostuni, che ricorda l'editore di Ponte alle Grazie. Siete stati con noi, grazie, sul sito sempre votando il 50% insomma sulle parole di Berlusconi, tantissimi anche i messaggi. Ringrazio come al solito anche Sara Spreafico in redazione e Peter Bescape in regia. Do la linea Oscar Giannino alle prese col vulcano islandese oggi, e noi ci sentiamo domattina.